Ferry Boat, in viaggio verso l'economia sociale. Insargante e traghettatore, ben trovati. Oggi facciamo un piccolo viaggio negli ospedali. Cominciamo con, e non poteva certo mancare nell'era dell'impatto zero, l'ospedale a imballo zero. In realtà questa pratica prevede la raccolta reparto per reparto, rispettando con molto rigore le normative europee in materia e utilizzando dei contenitori speciali ecosostenibili che possono essere usati 12 volte e poi anche riciclati. Quindi c'è una corretta eliminazione di scarti che sono chimicamente e biologicamente pericolosi. L'idea è la realizzazione di questo sistema di prodotti relativi e della Mengozzi rifiuti sanitari. Potete trovare notizie su internet. Restiamo in ospedale, questa volta ci spostiamo a Sant'Anna di Como, dove l'associazione Progetto Sorrisi nel Mondo ha intrapreso un'attività molto interessante, vorremmo dire quasi anche tenera, cioè quella di consentire attraverso gli audiolibri di leggere dei libri a chi non può farlo. Ne parliamo con il presidente del Progetto Sorrisi nel Mondo, che è il professor Andrea Di Francesco. Buongiorno presidente, come funziona l'audiolibro in corsia? Cosa riuscite a fare all'ospedale Sant'Anna di Como? Buongiorno Argante, buongiorno ai radioascoltatori. E il nostro servizio, che si chiama Libri in Corsia, è attivo da molti anni, è un servizio comune a molti ospedali che consentono, con un servizio di biblioteca, un minimo di accesso a quelli che sono i piaceri della vita, quelli che sono la possibilità comunque di poter leggere un libro e di distrarsi anche in un momento difficile della propria esistenza durante un ricovero. Con il nostro recente trasloco in un ospedale super tecnologico non potevamo fare a meno di portare un miglioramento e abbiamo pensato inventare questo sistema che si chiama Un Libro per Tutti e che consente anche alle persone non vedenti o ipovedenti di accedere a un servizio di biblioteca che non sarà ovviamente di libri tradizionali ma è di libri, di audiolibri che sono quindi ben fruibili anche dalle persone che non possono vedere. Ho letto nella presentazione della sua iniziativa che utilizzate anche le moderne tecnologie, quindi gli iPad. Ecco, in corsia la reazione, qual è stata dei non vedenti o degli ipovedenti a cui avete proposto di usare questo sistema? Abbiamo utilizzato, come diceva lei, questi strumenti innovativi, questi computer che hanno una interfaccia molto facile con l'utente e consentono anche alle persone non vedenti di poter navigare all'interno di programmi che poi possono essere anche programmi dedicati al servizio audiolibri. Questo strumento è molto semplice, che tra l'altro ha una evoluzione anche proprio in questi giorni e consente con dei piccoli accessori di essere più facilmente navigabile dal non vedente, è stato assolutamente ben accolto dai nostri pazienti che hanno queste esigenze un po' speciali e che riescono quindi con questo strumento a godere di qualche ora di relax sentendo, ascoltando un libro. Una battuta per chiudere, non abbiamo purtroppo ancora tanto tempo, Presidente, che cos'è il Progetto Sorrisi nel Mondo? Il Progetto Sorrisi nel Mondo è un'organizzazione che nasce 15 anni fa per curare, per operare soprattutto bambini affetti da malformazioni del viso, che noi operiamo e curiamo a Sant'Anna di Como da ormai tantissimi anni, ma abbiamo sempre pensato importante lavorare nel nostro ambito, tra la nostra gente, tra la nostra popolazione, fornire un servizio sempre migliore, e Libri in Corsia è un modo per essere vicino innanzitutto ai nostri pazienti italiani. Grazie Presidente, complimenti per l'iniziativa. Chiudiamo rimanendo nell'ambito della lettura, parliamo di MP3, parliamo di biblioteche e soprattutto accostiamo questi due concetti ai disabili e agli anziani. È un'iniziativa delle 35 strutture del Varesotto che si sono riunite in un sistema bibliotecario Valle dei Mulini. Chi non può leggere perché ha problemi ad affrontare un libro dal punto di vista cartaceo può usufruire in queste biblioteche degli MP3 e quindi ascoltarli. È tutto per oggi, vi ricordo Ferribotto @ Radio24. Per le vostre segnalazioni, un grazie alla Nita Panizza in redazione e a Valeria Bernardi in regia.